Buonasera, benvenute e benvenuti tutti quanti. Iniziamo con una serata direi gustosa, visto che siete già nell'aria profumi delicati. Sarà anche un buffet, questa volta lo anticipiamo, Sì, dai, ecco, perché di certo. solito lo teniamo Sarà un nascosto. buffet per parlare con le formelle. Ecco. Abbiamo il piacere questa sera di scoprire l'Alto Adige con un percorso diverso. Ecco, l'occasione è un libro che ci ha suggerito la signora Ferretti e abbiamo pensato appunto di inserirlo nelle nostre iniziative, nella nostra programmazione. L'accompagneranno questa sera anche la signora Voltani e la signora De Angelis, ci illustreranno sia il libro, il volume che vedete qui esposto e anche poi penso tutte le ricette e i lavori che la sezione, la delegazione di Bolzano del Club di Fornello realizza, vero? Sì, ha presentato. Ecco, la biblioteca ha sempre un'attenzione particolare per tutto quello che viene pubblicato e tutto quello che si muove, diciamo, a livello locale. Questo è un aspetto particolare che ci ha incuriosito e che vorremmo portare avanti anche se ci saranno delle altre occasioni, quindi non solo occuparsi di storia ma anche riscoprire l'Alto Adige da altri punti di vista, dando delle occasioni anche di approfondimento. La biblioteca ha del materiale anche in questo senso, tutto da leggere, da scoprire. Questa biblioteca, mi permetterete, devo anche dire due parole sul perché esiste e soprattutto perché in questo momento si trova qui e dove dovrà andare a finire, insomma. È una biblioteca locale che è stata istituita circa 6-7 anni fa, nel 1999, con una legge provinciale. Si trova in questa sede provvisoria perché fra qualche anno verrà realizzato il polo bibliotecario qui all'Istituto Pascoli e in questa sede confluirà insieme alla Biblioteca Civica e alla Biblioteca Tesman. Nel frattempo stiamo raccogliendo un patrimonio soprattutto bibliografico ma anche pubblicistico e informativo legato al territorio e attualmente siamo arrivati a quota 30.000 volumi catalogati. Se avete interesse si può accedere a questa struttura gratuitamente iscrivendosi ed essendo quindi costantemente aggiornate su quelle che sono le nostre iniziative. Una di queste è appunto la serata odierna, abbiamo però ogni lunedì più o meno nel nostro calendario previsto un incontro aperto al pubblico con questo consueto orario delle ore 18. Il prossimo lunedì infatti avremo un incontro, le prossime iniziative saranno la presentazione di un libro di un autore locale, Franco Latino, che verrà accompagnato da Silvano De Marchi, Eugen Galas, e le letture saranno affidate a Dell'Aquila, Rettucci e Zindaco. Il titolo del libro è La Roulotte, capitoli primi. Mentre l'11 febbraio, lasciamo una breve pausa per il carnevale, l'11 febbraio sarà la volta di un incontro con Ennio Marcelli all'interno di un ciclo che avevamo iniziato l'anno scorso sulla memoria. Porterà la propria esperienza, i propri ricordi, basandosi anche sui libri che ha scritto per le semirurali, sulle semirurali. E sarà accompagnato anche da Giorgio Mezzalira, che è uno storico che probabilmente conoscete e che opera sul territorio. Io vi ringrazio, cedo la parola alle signore e buon divertimento. Allora noi siamo, ma state sedute, la tranquilla, diventa troppo importante. Allora noi siamo qui a presentare, io sono la delegata del Club del Fornello di Bolzano e vi spiego un attimino che cos'è il Club del Fornello. È un club di signore appassionate di cucina, ma in modo, diciamo così, casalingo. Nel nostro club non possono partecipare delle professioniste, cuoche, pasticcere o proprietarie d'albergo, eccetera. Sono solo delle signore che cucinano volentieri e che si incontrano tra loro per parlare di cucina. Naturalmente la cucina è dove noi viviamo, è nel nostro territorio e per cucinare si usano i prodotti del proprio territorio. E quando noi facciamo questi scambi culinari sono sempre degli scambi di ricette, di prodotti, di cuochi, di posti dove si mangia bene, di come si fa questo, di come si fa quello, e noi ci scambiamo tutte queste esperienze in incontri che si chiamano, noi li chiamiamo delle conviviali. Le fornelle in Italia sono più di 700 e le città che hanno il CREP sono 45. Poi ci sono a New York, siamo a Salisburgo, siamo anche in Francia, per cui gli incontri li abbiamo anche all'estero. L'anno scorso abbiamo fatto un incontro noi di Bolzano con Salisburgo, Salisburgo ha cucinato, ha fatto la cena e noi abbiamo fatto il pranzo, ecco, con i nostri prodotti, lavorando in cucina, facendo vedere proprio come noi le facciamo le cose, perché è facile leggere una ricetta, è più difficile mettersi ed eseguirla veramente. E allora tra noi ci suggeriamo anche i piccoli trucchi, le difficoltà, ci aiutiamo anche nel realizzare bene quello che facciamo. Il Club del Fornello Bolzano adesso esiste da 12 anni, ma nell'occasione del decimo anno noi abbiamo pensato di contribuire facendo un'offerta all'ospedale di Brasov in Romania, che il Fornello sostiene, con una raccolta di fondi che non sapevamo come fare, volevamo contribuire perché qualche cosa volevamo fare come fanno tutte le fornelle anche in Italia, e poi abbiamo deciso di scrivere questo libro, questo volume. Noi siamo in 13, ognuna di noi si è presa il compito di parlare in 13 capitoli diversi, di parlare del territorio e raccontare qualche cosa di personale, di racconti di conoscenze o di una vallata. Ad esempio la Gabriella adesso vi leggerà un pezzo di una sua storia che ha scritto lei, di un pezzo che ha scritto lei, e in ognuno di questi poi di questi capitoli c'è anche un menù, e la Sara invece vi illustrerà il suo menù. Così che io adesso vi ho parlato dell'iniziativa del nostro libro, perché noi l'abbiamo fatto e abbiamo avuto molta soddisfazione, perché l'abbiamo già venduto tutto, diciamo, non abbiamo più da vendere, così che è stato apprezzato. E il libro è stato apprezzato anche dal cuoco Norbert Niederkofler, che è, per il momento è il cuoco più stellato dell'Alto Adige, e ci ha fatto la prefazione, ci ha scritto la prefazione. E lui per primo ha riconosciuto il valore della donna in cucina, che è ben diverso da quello del cuoco in cucina. Perché voi sapete, quando andiamo anche nei ristoranti migliori e assaggiamo un piatto e ci piace moltissimo anche quel piatto, però il giorno dopo non torneremo a mangiare quel piatto. Invece in cucina, quando noi cuciniamo, le nostre cose le continuiamo a riproporre, se sono fatte bene naturalmente, e ai nostri familiari piacciono sempre. Così che la differenza tra cuoco e libri di cucina, che ce ne sono moltissimi, fatti dai cuochi più importanti del momento, lo stesso Niederkofler, lo stesso Viezzani, gli stessi cuochi importantissimi che vediamo anche alla televisione, che sono fatti il loro libro, la differenza tra il nostro libro e il loro è che le nostre sono ricette di casa, tramandate di madre in figlia, e sono le nostre ricette originali che possiamo fare tutti i giorni, mentre le loro sono molto particolari, ricercate nei sapori, nei colori, nella presentazione, cosa che noi cerchiamo di fare ma in modo molto più semplice. Ecco, allora abbiamo la presentazione, poi il libro è suddiviso, vi ho detto, in 13 capitoli, ognuno di noi si è curata di uno. Abbiamo cercato di rispettare le stagioni, ma adesso vi racconterà come è fatto il libro la nostra Sara, la nostra fornella Sara. Io non sono così brava come la Luisa a parlare, allora mi sono preparate due cose che cercherò di leggere in modo scorrevole. Dicevamo, mangiare e bere sono una necessità, ma mangiare bene e bere bene è un atto culturale, una scelta. E per essere soddisfatta, che per essere soddisfatta richiede un certo impegno. Per questo motivo abbiamo pensato nei nostri menù di utilizzare le migliori materie prime provenienti dalla nostra regione, che è una zona di confine tra l'area mitteleuropea e l'area mediterranea. Così la nostra cucina potrà arricchirsi di elementi delle varie culture, fusi con quel tanto di fantasia e creatività che in cucina non guasta. Un grande cuoco disse che il successo è dato dal 5% di genialità e dal 95% di lavoro duro. Noi siamo convinte che in cucina ci vuole anche molta passione, oltre al lavoro. I nostri menù, come potrete vedere, o non so se qualcuno ha già dato un'occhiata al libro, seguono il ritmo delle stagioni. Visto che oggi tutti gli alimentaristi dicono che l'ideale sarebbe utilizzare prodotti freschi, addirittura l'ideale sarebbe staccare la mela dall'albero e mangiarla perché mantenga tutte le sue qualità freschi appena raccolti, quindi prodotti appunto di stagione. Le stagioni e i mesi da noi in Alto Adige sono accompagnati da usanze e tradizioni che si tramandano da secoli e che per fortuna vivono ancora in questa terra nostra. Per questo abbiamo pensato di aggiungere ai menu anche alcune informazioni e curiosità su quelle che sono le tradizioni nelle varie stagioni che si legano poi anche al mangiare e a tutto il resto. Il mio menù capita in luglio, mese d'oro dei pastori, che seguono il bestiame intorno alle malghe d'altura. Le nostre malghe sono ancora oggi molto, molto apprezzate e meta di turisti e anche di intenditori che cercano lì la genuinità dei formaggi, della ricotta, dei cibi. Alcune funzionano ancora a pieno ritmo come prodotti, altre più o meno modernizzate. E ci sono ancora, e questo è quello che trovate all'inizio del mio menù. C'è il discorso sulle malghe, perché luglio, pensato luglio, vacanza, spesso qui da noi la vacanza è in montagna ed è l'epoca proprio per visitare le malghe. L'epoca migliore. Allora questo discorso, il libro è fatto infatti così, c'è un discorso di informazione sulle cose nostre, geografiche, culturali, di tradizione eccetera, poi c'è un discorso su una nostra specialità, proprio altoatesina, e poi arriviamo al cocktail, al primo, al secondo e al dessert. Appunto, dicevo, le malghe al giorno d'oggi da noi sono ancora molto visitate. Se qualcuno volesse visitare una malga, un esempio di alpeggio affascinante come lo era una volta che si è mantenuto, c'è Malga Fane sopra valle, su una laterale di Rio Pusteria, che presenta 7-8 malghe con la loro chiesetta, è ancora un bel luogo da vedere. Questa è un'informazione che viene data sul libro. Che può servire, non può servire, a chi serve la prende, a chi non serve la lascia perdere. Passando per le malghe andiamo a finire, siamo in luglio, tempo di cucina all'aperto, di pranzi all'aperto, di merende sul prato, in terrazza eccetera, quindi, e dalle malghe stesse arriviamo allo speck, che è un po' il re della cucina altoatesina. Perché arriviamo attraverso le malghe? Perché nelle malghe vengono anche allevati i maiali col siero, i quali diventeranno poi dell'ottimo speck. E qui abbiamo un po', io non vi sto a dire tutto, qui c'è un'informazione sullo speck. Io mi ricordo 40 anni fa, quando insegnavo nelle valli, che si mangiava veramente lo speck come una volta, perché c'erano ancora le Schwarzküche, le cucine nere, dove il contadino metteva il suo maiale prima in salamoia con le spezie, poi nelle vasche col vino rosso, e poi lo metteva ad asciugare, e poi lo affumicava in queste cucine nere con ginepro, pigmento, finocchio e tante altre spezie che venivano schiacciate nel mortaio e poi messe. Di questo speck probabilmente ne mangeremo ben poco. Ci sono ancora alcune osterie in certe valli che producono, che hanno un prodotto fatto proprio per la loro famiglia e che però ogni tanto ti danno una merenda con il vero Pauen speck, che insomma non si trova più tanto, però quando lo trovi è veramente una cosa deliziosa. Poi per loro aveva anche un valore curativo, mi ricordo che mi dicevano quando 40 anni fa mi dicevano che la colite si cura con lo speck. Voi non ci crederete, ma loro dicevano che soprattutto il grasso dello speck faceva bene per la colite. Questo dico è così. Allora, e qui parlo appunto, nel menu si parla un po' dello speck, di questo nostro prodotto. Poi andiamo a questo cocktail di entrata, che è fatto con uno spumante dell'Alto Adige e il succo di Sambuco. Anche il Sambuco in luglio, per esempio, in montagna è nel suo splendore, ci sono questi cespugli sui 1000 metri, no? Qui da noi in città è già passato, però in montagna, se siete in villeggiatura, è proprio nel suo splendore, con questi mazzi grandi, bellissimi. Il Sambuco, che un tempo veniva detto, veniva chiamato, no? Nelle valli, mi ricordo, la farmacia del contadino. Perché con le foglie si faceva un decotto per la gola, con i fiori servivano per la pelle, per le bruciature, per gli occhi, le bacche, che sono piene di vitamina C, servivano per marmellate, ecco, contro la bronchite, poi anche per dei cordiali, facevano tante cose con queste bacche del Sambuco. Anche il Sambuco è una pianta nostra, che troviamo, e le signore fanno quasi tutte da soli questo succo di Sambuco, che è molto semplice. Io non ve lo sto a dire, ma se qualcuno vuol chiedermi qualcosa, poi me lo chieda, insomma, perché non vorrei. C'è anche non la vorrei. Ricetta del c'è succo. Comunque tutto, c'è la ricetta del succo e sì. C'è la ricetta. Questo cocktail di entrata è fatto con questo Sambuco, con un spumante, e accompagnato da queste palline di formaggio caprino arrotolato a pallina e poi arrotolato nelle mandorle tritate grossolanamente per accompagnarlo. Poi noi abbiamo messo anche qui, come vedete, per esempio qui scrivo, mettere le palline una a una in un cucchiaio da minestra, ornare con il fiore della lavanda o violette su un vassoio di vimini, eccetera. Ma queste sono cose che buttiamo lì, insomma, poi chi le vuole le fa. E chi non le vuole, insomma, sono optional questi, sì, qua, ma per no? Far capire però, che la presentazione, insomma, è importante. Anche insomma. La presentazione, a volte, se uno vuol fare una cenetta, un pranzo particolare, magari qualche idea la può trovare, ma insomma non è che... Ecco, dal Sambuco passiamo allo strudel di cavolo cappuccio. Qualcuno mi ha detto, ci sono delle ricette difficili, ma non sono poi difficili. Per esempio questa salsa del contadino che si accompagna al filetto sembra difficile perché c'ha un sacco di ingredienti, ma se poi uno si mette a farla è subito fatta, insomma, non è che siano poi così, a volte sembrano più difficili a leggersi che a farsi queste cose, no? Questo strudel di cavolo cappuccio è fatto appunto col cavolo cappuccio rosolato con la cipolla e qualche dadino di speck, perché lo speck si adopera molto nei nostri piatti, sia nei piatti sofisticati e sia anche in quelli più rustici, e dà un sapore caratteristico, e alle cavolacce, per esempio al cavolo e alla verza si abbina bene. E è uno strudel fatto con questo cavolo praticamente stufato e poi la pasta sfoglia, che si può comprare ma la potete fare anche in casa, oppure anche la pasta brisè, che si taglia poi anche meglio e la potete fare anche voi, e poi arrotolato, spennellato come si fa sempre con una base di prosciutto e questo cavolo trattato, stufato, sì. E anche con l'aceto e un po' di zucchero, cioè in agrodolce quasi, no? Che si mette all'interno. Io non vi leggo le ricette perché... Comprate il libro. No, ma non per quello, perché andremo troppo per le lunghe a leggere. Cioè, voglio farvi vedere che siamo in luglio, loro hanno scelto delle cose che andavano bene per quella stagione e che si potevano. Anche il filetto, per esempio il filetto è una cosa semplicissima che d'estate, visto che è tempo di grigliate, si può fare benissimo. Noi però diciamo che il filetto va sempre presentato da solo. E qui è una ricetta semplicissima, è un filetto grigliato, prima avvolto nel lardo salato, che poi va tolto quando è pronto, cioè si griglia, poi si toglie il lardo, e accompagnato da questa salsa contadina che è molto interessante, ma non ve la sto a leggere perché gli ingredienti sono tanti e dovete proprio averli sotto mano, insomma, per farla, no? E il filetto però, diciamo, noi si dovrebbe servire sempre da solo, mai in un piatto misto, in una grigliata mista, perché il filetto va gustato da solo per il suo sapore caratteristico e raffinato, eccetera. Noi lo abbiamo presentato con questa salsa contadina. Poi ci sono le patate al cartoccio, che sono buonissime. E queste ve le leggo perché vale la pena. Lavare le patate e avvolgerle in fogli di carta d'alluminio con la parte lucida all'interno, con la buccia naturalmente, no? E la parte della carta lucida all'interno. Poi si mettono in una, si condiscono con un po' di sale, cumino e una noce di burro. Poi si chiude tutto, si mettono in una pirofila col sale, con parecchio sale sotto, sale grosso, normale. E poi si infornano con il forno a 200 gradi circa per 30 minuti, 25 minuti, poi si assaggia con la forchetta, insomma, se sono cotti si tolgono dal forno, si apre il cartoccio, si fa un segno a croce e ci si infila un fiocchetto di burro. Poi si richiude, si tengono calde e si servono col filetto, ma anche con altre cose, anche con del pesce, perché si possono servire, no? Certo. Con tante cose. E sembra facile farle, però è un buon piatto e bisogna anche farlo giusto. Piccoli particolari. Ecco, quei piccoli particolari che te li arricchiscono. Se poi avete le patate buone, ecco, allora è ancora meglio, perché anche quello non è così facile trovarle, no? Giorno d'oggi le patate buone diventano sempre più difficili. Ecco, una cosa un po' particolare come dolce, sempre perché io che sono in Val di Fiemme d'estate ho questo sambuco attorno che è rigoglioso, e poi io che sono di origine bolognese amo molto i fiori e la frutta pastellata, perché noi la usiamo molto, la usavamo insomma molto. Io sono qua da 60 anni, ma comunque sarei di origine bolognese, e da noi usa molto. E lì in Val di Fiemme ci sono molti, per esempio il sambuco si presta benissimo, come si presta anche il fiore della rubinia, per esempio, che è buonissimo fatto in pastella, no? E altri tipi, e poi la frutta naturalmente, e le verdure. Ma questi fiori di sambuco si raccolgono col gambo un po' lungo, si raccolgono sempre nelle giornate di sole, nelle giornate serene, belle, limpide. E poi non si lavano, infatti non bisognerebbe raccoglierli vicino alla strada, vicino, bisogna raccoglierli un po', perché si devono pulire bene ma non si devono lavare, perché queste stelline bianche cadono tutte, lavandole si rovina. Allora si lasciano senza lavarli e si raccolgono col gambo lungo, e poi si fa una pastella con 150 g di farina, 3 uova, però gli albumi si lasciano a parte, e 2 decilitri 2,5 di latte, e si uniscono questi ingredienti lasciando a parte gli albumi che sono stati sbattuti fissi a neve. Poi la pastella si lascia riposare un po', bisognerebbe lasciarla riposare un'oretta, poi si amalgama assieme agli albumi e si intingono questi fiori, tenendoli per il gambo, si intingono questi fiori nella pastella, che deve essere come tutte le pastelle, un po' morbida, no? Un po' densa ma non troppo. Si intingono i fiori nella pastella e si mettono a friggere nell'olio, che anche lì non deve essere troppo fritto, deve essere giusto, insomma, no? come per fare i crostoli, sì, che poi mangerete. Allora, si intingono questi fiori e poi li si mettono qui. Io suggerisco di presentarli con su fette di pompelmo per fare un piatto per il dessert, diciamo. E aggiungere una pallina di sorbetto alla menta, che c'è la ricetta in un'altra pagina, e poi decorare con le fragoline di bosco, un po' di mentuccia, qualche fiorellino di salvia che c'è in giro di stagione, eccetera. Ecco, un dessert un po' diverso. Ecco, tutti i menù sono fatti in questo modo. Si parte sempre da un'informazione che è di origine culturale, diciamo di costume, di tradizione, poi un'informazione su un prodotto tipico locale nostro, e primavera ci saranno gli asparagi, sì, no, ci sono altre cose, e poi si passa a quello che è il menù, ci sono anche il consiglio dei vini, che anche quello è un optional, però vi assicuro che abbiamo interpellato gli esperti, non è che abbiamo messo lì i vini così, abbiamo interpellato le persone giuste che sapevano abbinare il vino giusto. Vi ringrazio molto, spero di non essere stata troppo lunga. Ecco, io invece mi... La Gabriella, sì. Sì, no, aspetta, sì, bello stesso. È tuo, sì. Sì, bello stesso. Ecco, noi stiamo alla fine del menù, però la Sara forse ho dimenticato un attimo, noi abbiamo cercato anche sempre di abbinare il pane, il tipo di pane, sì, perché certo, è vero che noi in Alto Adige abbiamo 100 tipi di pane diverso, però non è che vada bene con tutti i cibi, allora bisognerebbe capire quando usare il pane bianco comune, quando usare quello all'olio, quando quello con i semini. Ecco, non andare a caso. Quando noi abbiamo preparato questo menù, ad esempio il primo sarebbe il menù di Pasqua, naturalmente abbiamo abbinato il pane di Pasqua, questo è il discorso più facile. Però ad esempio per questa tua ricetta, questa così cena che rustica pane hai? Abbiamo abbinato baguette e semi di zucca, servita tiepida con burro, la medrotel, cioè ridotto in una pasta morbida con prezzemolo, sale, pepe e qualche goccia di limone, oppure una pagnotta toscana. Capite? Un pane, la baguette, la pagnotta, tagliato a fettine con sopra un po' di questo aglio, perché naturalmente abbinandolo lei aveva il filetto, questo filetto è il pane più giusto, insomma. Invece se io faccio i würstel, abbiamo messo vicino i pretzel, se abbiamo fatto, non so, adesso non mi vengono altri esempi, insomma, ma ogni menù ha il proprio pane, al proprio vino abbinato, ed anche la presentazione della tavola, che tu non hai detto, sì, una decorazione, ma non perché la persona che trova questa decorazione poi debba diventare matta ad usare proprio quei prodotti, ma non che, volevo che fosse capisca così. No, che la persona capisca che anche il prodotto, come viene presentato, dove viene presentato, deve dimostrare che siamo in un menù estivo, che è estate. E allora anche noi prepareremo con la tovaglia a quadretti, con i fiori di stagione, e adesso io non so qual è la decorazione tua di quel momento. Le ortensie, io l'ho preso perché a me piacciono le ortensie. Tovaglia da cucina blu lacca, sotto i piatti trasparenti, centri bianchi, intagliati o ricamati a mano, bicchieri e brocche di vetro verde o viola, perché ci sono le ortensie, allora ripetiamo i colori. Però questo non vorrei che sembrasse troppo lezioso o troppo impegnativo, cioè questi sono dei suggerimenti, suggerimenti che voi potete prenderli o potete non prenderli, insomma, non è che se non lo fate così non vi viene bene, però è un'idea, no? Questa poi i tovaglioli viola, avevo detto, e le ortensie. Sì, perché avevamo cercato di giocare sul blu, sul verde e sul viola, i colori delle ortensie, i colori di quel momento, che erano quelle del momento. Ecco, allora la Gabi ci parla della tradizione, invece. Ecco qua. Allora, intanto buonasera a tutti e grazie. Abbiamo pensato inserire in questo libro non solo ricette, ma anche di parlare delle nostre tradizioni, perché noi qui in Alto Adige abbiamo bellissime tradizioni che forse non conosciamo, Io per esempio avevo parlato dell'avvento, adesso questo comunque è un argomento mai superato, e allora ho pensato di farvi conoscere, se forse voi non lo conoscete, questa tradizione si chiama dei dischi infuocati, che viene fatta principalmente nel mese di marzo, in Val Venosta. Allora, a marzo, io vi leggo questo pezzo che così è anche più semplice a sentire. A marzo in varie località si usa scacciare l'inverno e gli spiriti maligni delle tenebre facendo schioccare le fruste, schiamazzando con i campanacci, accendendo con fuoco e traspare le stoppie di grano rimaste sui campi. In Val Venosta, nella prima domenica di Quaresima, si risveglia la primavera con un rito arcaico, risalente ai tempi dei pagani e dei reti. Il lancio dei dischi infuocati, come vedete, no? Da bambini era l'evento più atteso dell'anno, il più spettacolare. I giovani si preparano per settimane dividendosi in gruppi, ognuno in rappresentanza di una frazione del paese, scegliendo un tronco di albero lungo e appuntito, quale palo per il rogo della strega. Questo palo va guardato a vista per evitare che i gruppi nemici lo trafughino. Sulle alture dominanti il paesaggio si infilzano lunghe pertiche fasciate di paglia, in cima portano una croce o un rombo e ramoscelli di ginepro. Lì si estrarrà più tardi con un bastone per agitarli al vento e farli avvampare, come vedete, no? I più abili li lanciano a mo' di dischi infuocati che trascinano nel buio una parabola luminosa. Contemporaneamente gridano a grande voce una formula auspicante fertilità. Il lancio precede e segna il rogo della strega, la Hexe, una sorta di festival pirotecnico. Quando alle prime ombre della sera inizia il lancio di questi Scheibelen, si chiama, l'effetto scenico è suggestivo e lo potete vedere. I dischi disegnano nell'aria stupende scie luminescenti. Il palo impagliato, alto anche più di 10 metri, su cui verrà bruciata la strega, prende fuoco. Il suo chiarore splende a grande distanza. È il simbolo lucente di una festa antichissima, rito di fecondità per la terra e per le giovani coppie, festeggiata con gioia e accompagnato da pentoloni di vin brûlé. Invece noi qua prenderemo champagne. Ecco, qui è tutta la nostra storia, e spero che vi sia piaciuta, e anche vi auguro, se vi trovate per caso in Val Venosta la prima domenica di Quaresima, potrete assistere da vicino questa storia che forse qui a Bolzano tanti non conoscevano, e che invece poi ce ne sono tante altre che sono anche molto belle, soltanto che adesso andiamo a mangiare. Allora, noi abbiamo pubblicato il libro con Atesia, però è in vendita da Atesia e anche da Cappelli, così che chi lo volesse acquistare costa 17 euro. Ripeto, noi l'abbiamo fatto in beneficenza per questo nostro ospedale dove siamo impegnate, e parte del ricavato lo manderemo senza dubbio all'ospedale di Brașov in Romania, un ospedale di bambini dove io personalmente mi sono recata a portare medicinali e contributi proprio di vestiario e di abbigliamento per i bambini e le loro mamme, e vi assicuro che c'è bisogno, come da tante altre parti, però questo è il nostro impegno come Formelle d'Italia. Bene? Ecco. Grazie a tutti e buona serata. Allora, un momento solo. Allora, la Sara ha preparato i crostoli, l'Emanuela ha preparato le tartine, chi volesse le ricette può averla. E se vogliono chiedere. Non ho capito che cosa devo dire ancora, che non ho capito. No. Ecco, stavo dicendo, la Sara ha preparato questo, lei ha preparato questo, però adesso se qualcuno volesse chiedere qualcosa del libro è vero, siamo a disposizione, non siamo abituati a fare queste cose. Ecco, e se qualcuno volesse chiedere qualche cosa o delle ricette del libro. Lei mi ha detto che non c'è attualmente il libro. Sì, lo ne abbiamo adesso, cioè, oggi c'è. Ah, c'è lei nel mondo? Ecco, mi dica, ingegnere. Non ho ancora letto il libro, quindi non posso dire, ma un suggerimento forse, sì? Siccome sono, c'era alimentazione corretta o dieta mediterranea, forse non so se ci sono le calorie in questi pasti. È vero. Non siamo così. Ma no, è vero, forse si dovrebbe. No, ingegnere non abbia paura. Le nostre ricette sono proprio fatte tutte con prodotti del luogo e non sono quelle succose, pesanti, come le può trovare in Puglia o in Romagna. Veramente abbiamo cercato, il menù può sembrare anche tanto, però se la quantità che si mangia di ogni cosa, se si è un pochino parchi di quello che si mangia, il modo di cucinare è quello corretto, abbiamo pensato anche che siano dei menù equilibrati. Ecco, questo senz'altro, se lei lo guarda, poi naturalmente non occorre sempre partire col cocktail, l'antipasto, il primo, il secondo, il dolce, perché certe volte proponiamo anche due dolci, ma noi il libro lo dovevamo anche riempire, se facevamo dei menù veloci con la pasta asciutta e così, ecco, però uno poi può scegliere, un giorno fa la crostata di albicocche e l'altro giorno fa un'altra cosa, ecco. Però vi assicuro che noi i menù li abbiamo dosati, pensati e provati. Pensate che queste ricette noi le abbiamo provate. E allora ci siamo trovate che l'Emanuele mi telefonava e mi diceva: no, guarda, lì no 10 grammi, 5 grammi, perché i 10 grammi sono troppi. Noi li abbiamo tastate. Corpo vivo. Sì, proprio noi, perché per passione, non è che le abbiamo fatte per il libro, noi da sole le assaggiamo, no? Oppure stai attenta che lì lo zenzero è un po' troppo, toglielo e così. Perché le abbiamo proprio tastate e vi prego provatele anche voi perché forse ne vale la pena, ecco. Grazie ingegnere. Poi c'è qualcun altro che ci voleva chiedere qualche cosa? Sì, è lo stesso, grazie. No, se qualcuno aveva chiedere qualche cosa, Renate? No, tu sei una perfetta. No, non sono convinta. Sì. Volevo chiedere se eventualmente queste ricette presuppongono una mano esperta oppure diciamo anche perché esistono sanno fare molto e che magari non hanno mai provato delle ricette, diciamo, mettiamo particolari. Si possono fare a me tutto. Piace, ma sai, ad queste esempio, cose mangiare molto semplice, molto tradizionale, ancora la vecchia, eccetera, però che riempie, diciamo, questo quadro. Certo, è questo quadro. Possono fare tutti. Ma per noi donne di casa, che cuciniamo, io e te che cuciniamo da 40 anni, penso che l'esperienza delle cose normali ce l'abbiamo, se qualche giorno vogliamo fare una cosina particolare e la ricetta è scritta bene, è chiara, niente è difficile, ma senza dubbio non sono ricette con due, tre forchette come si trovano in altri libri, perché le nostre, diciamo, qualche volta sono di una forchetta, ma è più una certa attenzione, ma come ti ha spiegato lei, che ti ha fatto leggere la ricetta, lei ti ha letto la ricetta delle patate nel cartoccio, che forse tu pensi la cosa più semplice che c'è, invece non è vero, perché l'astuzia qualche volta è proprio nel usare la carta nel modo giusto, aprirla così, mettere, capisci? Sono piccoli, piccoli segreti che noi abbiamo cercato di... che però sono semplici di attuare, non sono cose perché... Sanno fare chiunque, sì, sa fare. Perché riesca bene, ecco. Questo è stato il nostro scopo. Direi che la migliore. Certo. Sì, senz'altro. Ma poi sai, anche a te stessa una volta una cosa ti riesce bene e un'altra volta la fai con gli stessi ingredienti, non ti riesce bene, quello può sempre succedere in cucina. La differenza tra il cliente la luna e che hai. Qualcuno mi ha chiesto la differenza del cliente. Anche la luna tua. è il club dell'Accademia della Cucina. L'Accademia, i signori dell'Accademia della Cucina, qui magari ci sarà anche qualcuno dell'Accademia. La differenza tra noi e loro, noi fornelle, è che noi cuciniamo e qualche volta sbagliamo. E sbagliamo, perché ecco, invece i signori dell'Accademia della Cucina vanno al ristorante. Se per caso il cuoco sbaglia, subito si lamentano e gli danno un brutto voto. Invece noi che cuciniamo sappiamo che si può anche sbagliare, che spesso si sbaglia. Soprattutto se hai degli ospiti a cena e ti capita proprio che quella volta il sugo ti si attacca. No? Succedono queste. E allora noi non siamo mai severi neanche quando andiamo nei ristoranti, perché sappiamo che può succedere in cucina, può succedere di tutto. Soprattutto che è un lavoro molto faticoso e che il lavoro del cuoco è uno dei lavori più faticosi che esistano, perché devono lavorare con delle pentole pesantissime in ambienti spesso caldi e devono lavorare di fretta, stare sempre in piedi, così che noi capiamo che se qualche volta il piatto non è riuscito forse si può anche giustificare, insomma, è naturale. Ecco, dica. Considerando che mi pare che siate un'organizzazione solo rosa. Sì, sì, sì, sì. Mai pensato di estendere ad esempio tutta questa vostra arte, questa vostra capacità anche a dei maschi che vogliono iniziare la cucina? Sì, i maschi sono anche molto bravi. I maschi che sono più bravi. I maschi sono bravissimi, sono bravissimi cuochi. E noi ci togliamo tanto di cappello e forse vanno proprio bene, perché le ho appena detto che il lavoro del cuoco è un lavoro molto pesante. Però la donna è più metodica, più regolare, più continuativa. Infatti solo la donna sa essere mamma, sa essere donna di casa. Un papà non potrebbe sostituirla. Ed è per questo che noi presentiamo un libro per la donna di casa. Noi fornelle siamo solo donne, ma non perché non vogliamo gli uomini, siamo solo donne. E nemmeno perché ci vogliamo incensare perché siamo donne, ma proprio perché tra noi c'è l'argomento donna, famiglia, figli, lavoro, e quando ci incontriamo, medicine, farmacie, noi parliamo di tutto noi donne, perché ci scambiamo consigli di tutti i generi. E il bello del nostro club è quello, perché se parliamo di cucina, però anche ci sosteniamo come donne nel nostro lavoro di mamma, nonna, zia e moglie qualche volta. Ecco, questo è ecco perché il club è nato femminile e così e rimane femminile. Ormai ha 30 anni, è nato a Piacenza, è nato 30 anni fa, e insomma abbiamo già festeggiato i 30 anni, per cui va avanti così femminile, penso, ecco. Allora adesso vi invitiamo tutti ad accomodarvi a questo buffet, che spero sia un esempio della nostra buona volontà.